Dalla doccia più sporco di prima. Questa fa incessante, è un'agonia continua. Meglio le coperte, questa è la mia linea, che la goccia di sudore sui fianchi che si insinua. Nelle mutande il costante desiderio di una bevanda dissetante e rinfrescante. I contatti con la tipa sono assenti per lo stioni. Quando ci baciamo siamo due cazzo di piccioni. Un nero è meglio quando eri con la stufa e le piumoni. Da dopo di mutande tipo cacciari sono i cuccioni. E al mare non ti tuffare mai, è giù la bucca. Carisci che caso palingua, uno stronzo si ci corca. Andiamo a Palerna, callo, un bacio, non c'è un cazzo. Scappa dalla mezza cale, sta tu c'è nu cazzo. Andiamo a Palerna, callo, bacio, non c'è nu cazzo. Scappa dalla mezza cale, sta tu c'è nu cazzo. Si prospetta una serata come tutti quanti lacci. Se fossi stato uno siciliano, bella madre, allo bacio in berino, vina, iana, cazzi mori. Devo farmi venire un'idea per cambiare gli umori. E chiamalo scialeca, se viene tutto nei castro. E chiamalo due mari, coi tagliano un nastro. Quello cazzo, stavimo cacchia e mieggio. Si chiama Palerna, cazzo. Cazzo, io ci vieno, mi riciti che cazzo c'è su basto lungo mare. Anche una vecchia che cammina con Lucana a Lucullari. Io ci ho di luna ora, un ci posso stare. Casa in nuova parete, porta mi ci lascia la chiave. Andiamo a Palerna, callo, bacio, non c'è nu cazzo. Scappa dalla mezza cale, sta tu c'è nu cazzo. Andiamo a Palerna, callo, bacio, non c'è nu cazzo. Scappa dalla mezza cale, sta tu c'è nu cazzo. Sì, tutti siamo pronti a fare la prova costume, ma con la panza che mi trovo puzzo iri solo mumi e lontano un fiume. Non cerco grane, ops chiedo scusa, mi lavo il culo e le ti dire alla pidu chiusa. Andiamo a Palerna, che mi piglio una cosa, calare a quella mezza è diventata dannosa. Ragazze con le gambe da sirene, con pischelli che non sanno cosa un pene. Datemi un motivo per restare dove sono, a prati paninari nelle feste del patrono, dove il sudore la farà da padrone. Ma questo è l'elemento che lo renderà migliore, è più buono per me come un dono. Ma tutti giù a Palerna e persino Sant'Antonio, tutta un'altra cosa quando c'era un vecchio con. Ma andiamo alla tonnare e imbucamo il nu cazzo in matrimonio. Andiamo a Palerna, callo, bacio, non c'è nu cazzo. Scappa dalla mezza cale, sta tu non c'è nu cazzo. Andiamo a Palerna, callo, bacio, non c'è nu cazzo. Scappa dalla mezza cale, sta tu non c'è nu cazzo. Andiamo a Palerna, callo, bacio, non c'è nu cazzo. Scappa dalla mezza cale, sta tu non c'è nu cazzo. Andiamo a Palerna, callo, bacio, non c'è nu cazzo. Scappa dalla mezza cale, sta tu non c'è nu cazzo. Ma a sto punto andiamo a Palerna. Tu non c'è nu cazzo. Ma ce ne andiamo dalla mezza, che qua proprio c'è, non è che. Tu non c'è nu cazzo. Appunto.